Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Il signor Emerson è un tipo abbastanza eccentrico, disse il signor Bibb titubando. Quindi proseguì in tono blando. Secondo me non avrebbe approfittato del vostro consenso, né si sarebbe atteso qualche manifestazione di gratitudine da parte vostra. Ha il merito, posto che sia un merito, di dire esattamente ciò che pensa. Occupa delle camere cui non tiene affatto e crede che voi ci terreste. Non si sognava di costringervi a sentirvi in obbligo più di quanto si sognasse di usarvi una gentilezza. È così difficile, a me perlomeno riesce difficile, capire coloro che dicono la verità. A lui si piacquero quelle parole e osservò: speravo che fosse un bravo uomo. Io spero sempre di avere a che fare con della brava gente. A me sembra che lo sia. Un bravo uomo che mette a dura prova la pazienza altrui. Io dissento da lui su quasi tutti i punti di una certa importanza e perciò mi aspetto, diciamo pure mi auguro, che dissentiate da lui anche voi due. Ma quell'uomo appartiene a una specie che suscita fastidio piuttosto che indulgenza. Quando arrivò qui, come era facile prevedere, fece saltare la mosca al naso a tutti noi. Non ha tatto e non ha creanza, col che non intendo insinuare che sia uno screanzato, ed è incapace di tenersi per sé le sue idee. Manco poco che non ci lagnassimo di lui presso la nostra deprimente signora, ma sono contento di poter dire che ci ripensammo e non ne facemmo di nulla. Debbo arguire da questo che è un socialista? Chiese la signorina Bartlett. Il signor Bibb accettò la definizione di comodo, non senza contrarre le labbra in un fuggevole tic. Ed è da presumersi che abbia allevato suo figlio per fare di lui un altro socialista? George lo conosco a malapena, giacché non ha ancora imparato a parlare. Sembra una buona creatura e credo che il cervello non gli manchi. Naturalmente ha tutte le fisime del padre ed è possibilissimo che sia un socialista anche lui. Lei mi tranquillizza, disse la signorina Bartlett. Dunque ritiene che avrei dovuto accettare la loro offerta? Giudica che io mi sia dimostrata gretta e sospettosa? No, davvero, rispose il signor Bibb, non ho mai voluto dire una cosa simile. Ma non dovrei scusarmi a ogni buon conto per la mia apparente villania? Con una punta di irritazione nella voce il reverendo spiegò che le scuse non erano affatto necessarie e si alzò per andare nel fumoir. In quel momento si avvicinò una delle due vecchiette, che già da qualche tempo sorrideva con grande benevolenza, e chiese il permesso di sedersi nella sedia che aveva occupato poco prima il signor Bibb. Ottenuto che l'ebbe, si mise a chiacchierare soavemente dell'Italia. Descrisse la sensazione di fare un salto nel buio che aveva provato all'arrivo e la consolante riuscita di quel salto, il miglioramento nella salute di sua sorella. Spiegò la necessità di chiudere le finestre delle camere da letto al calare della sera e di vuotare fin dell'ultima goccia la caraffa dell'acqua al mattino. Trattava quegli argomenti in forma gradevole ed erano forse più degni d'attenzione degli altisonanti discorsi su guelfi e ghibellini che avevano luogo tempestosamente all'opposta estremità della stanza. Era stata una vera catastrofe, affermò la nuova conoscente, non già un comune episodio, quella tal sera del suo soggiorno a Venezia, quando aveva scoperto in camera da letto qualcosa che era peggio di una pulce, benché fosse un po' meglio di qualcos'altro. Ma qui possiamo stare tranquilli, come in Inghilterra. La signora Bertolini è così inglese. Però nelle nostre camere c'è cattivo odore, disse la povera Lucy. Abbiamo paura di infilarci tra le lenzuola. La vecchietta non si addentrò ulteriormente nella disquisizione, giacché stava tornando il signor Bibb e appariva estremamente soddisfatto. Signorina Bartlett, gridò, il problema delle camere è risolto. Me ne rallegro di cuore. Il signor Emerson ne riparlava nel fumoir e, sapendo quel che sapevo, l'ho incoraggiato a rinnovare l'offerta. Mi ha autorizzato a venire a parlarvene. Sarebbe veramente contento se l'accettaste. Oh, Charlotte! Esclamò Lucy. A questo punto dobbiamo prendere le loro camere. Quel vecchio non potrebbe essere più buono e gentile di così. La signorina Bartlett taceva. Temo di essere stato indiscreto, disse il signor Bib dopo una pausa. «Devo scusarmi per la mia intrusione». Gravemente dispiaciuto, si girò per tornare sui suoi passi, e non prima di allora la signorina Bartlett si decise a rispondere. «Le mie preferenze personali, carissima Lucy, non contano niente in confronto alle tue. Sarebbe davvero esoso da parte mia impedirti di agire a modo tuo qui a Firenze, dal momento che mi ci trovo unicamente per bontà vostra. Se desideri che estrometta quei signori dalle loro camere, lo farò. Dunque, signor Bib, vuole avere la cortesia di dire al signor Emerson che accetto la sua gentile offerta e poi di condurlo da me affinché possa ringraziarlo di persona?» La signorina Bartlett alzò la voce via via che parlava. Fu udita da un capo all'altro del salotto e impose il silenzio a Guelfi e Ghibellini. L'ecclesiastico, maledicendo in cuor suo il sesso debole, si inchinò e ripartì con l'ambasciata. «Ricordati, Lucy, che io sola sono coinvolta nella faccenda. Non ammetto che il consenso provenga da te. Vorrai concedermi questo, almeno?» Il signor Bib fu presto di ritorno e disse con un certo nervosismo: «Il signor Emerson è occupato, ma ecco qua il figlio, invece sua». Il giovanotto chinò gli occhi sulle tre signore, che ebbero l'impressione di stare sedute in terra da quanto erano basse le loro sedie. «Mio padre è in bagno», disse, «e perciò non potete ringraziarlo personalmente, ma qualunque cosa abbiate da comunicargli, gliela riferirò io appena uscirà». La signorina Bartlett non fu all'altezza del bagno. Tutti i suoi convenevoli puntuti scaturirono alla rovescia. Il giovane Emerson segnò un considerevole trionfo, con gioia del signor Bib e con gioia segreta di Lucy. «Povero figliolo!» esclamò la signorina Bartlett mentre egli si allontanava. «Com'è arrabbiato col padre per via delle camere! Gli costa una bella fatica non mostrarsi in civile!» «Le vostre camere saranno pronte fra circa mezz'ora», disse il signor Bib. Diede un'occhiata meditabonda alle due cugine, quindi si ritirò nella sua stanza per redigere il proprio diario filosofico. «Oh, mio Dio!» bisbigliò la vecchietta e rabbrividì come se tutti i venti del cielo si fossero aperti il varco nel salotto. «I signori uomini, a volte, non si rendono conto». La sua voce si spense, ma la signorina Bartlett mostrò di capire. E si svolse una conversazione in cui ai signori uomini, che non si rendevano pienamente conto, toccò la parte di protagonisti. Lucy, che non si rendeva conto neanche lei, fu costretta a ricorrere alla letteratura. Prese il volume del Baedeker intitolato «Guida dell'Italia settentrionale» e imparò a memoria le date più importanti della storia di Firenze. Si era infatti proposta di divertirsi parecchio l'indomani. Così la mezz'ora trascorse proficuamente e alla fine la signorina Bartlett si alzò con un sospiro e disse: «Credo che adesso si potrebbe affrontare il rischio. No, Lucy, non muoverti, al trasloco provvedo io. Voglio spiegarti perché mi sono presa la camera più grande», ricominciò la signorina Bartlett. «Inutile dire che avrei dovuto destinarla a te, ma sono venuta a sapere che apparteneva al giovanotto e non dubito che a tua madre questo non sarebbe piaciuto». Lucy rimase sbalordita. «Se proprio sei costretta ad accettare un favore, è più opportuno che ti consideri in obbligo verso suo padre che verso di lui. Io sono una donna di mondo nel mio piccolo e so che da cosa nasce cosa. Ad ogni modo il signor Bib costituisce parzialmente una garanzia che quei due non si approfitteranno della situazione». «Sono sicura che alla mamma non importerebbe affatto», disse Lucy. Ma ebbe di nuovo il senso di più vasti e insospettati problemi. La signorina Bartlett si limitò a sospirare e cinse la cugina in un abbraccio protettivo mentre le augurava la buonanotte. Quel gesto fece a Lucy l'effetto di una nebbia, e quando fu rientrata in camera sua, aprì la finestra e respirò la tersa aria notturna, pensando al buon vecchio che le aveva consentito di vedere le luci danzare sull'Arno e i cipressi di San Miniato e le propaggini degli Appennini profilarsi neri a contrasto con la luna nascente. Ah, bello svegliarsi a Firenze, aprire gli occhi in una camera luminosa e nuda dall'impiantito di mattonelle rosse che paiono pulite benché non lo siano, dal soffitto dipinto sul quale uno stormo di grifoni rosa e di amorini azzurri folleggia in una foresta di violini e di fagotti gialli. Bello anche spalancare le finestre pizzicandosi le dita nei chiavistelli inconsueti, affacciarsi allo splendore del sole su ameni colli e alberi e chiese marmoree di rimpetto e a brevissima distanza sotto di sé scorgere l'Arno che gorgoglia e lambisce la spalletta fiancheggiante la strada. Un ragazzino cadde. Da un'arcata sbucarono dei manzi bianchi. In verità, se non fosse sopraggiunto coi suoi saggi consigli un vecchio venditore di agganciascarpe, la strada sarebbe rimasta probabilmente ingombra per sempre. A causa di quisquiglie del genere possono volare via molte ore preziose, e il viaggiatore venuto in Italia per studiare i valori tattili di Giotto o la corruttela del papato, rischia di tornarsene in patria senza ricordare nient'altro che il cielo azzurro e gli uomini e le donne che ci vivono sotto. Fu dunque tanto di guadagnato che la signorina Bartlett bussasse alla porta e entrasse nella stanza, e dopo aver criticato la duplice imprudenza di Lucy, si era dimenticata di chiudere la porta a chiave e ora si sporgeva dal davanzale prima di aver terminato di vestirsi, la esortasse a sbrigarsi se non voleva sprecare il meglio della giornata. Quando Lucy fu pronta, la cugina aveva finito da un pezzo di fare colazione e stava ascoltando i discorsi della signora competente in mezzo alle briciole. Si svolse quindi un dialogo secondo uno schema non nuovo. La signorina Bartlett, tutto sommato, era un tantino stanca e giudicava più saggio che passassero la mattina in casa, a meno che Lucy non preferisse uscire, nel qual caso Lucy avrebbe preferito uscire, visto che era la sua prima giornata fiorentina, ma naturalmente poteva uscire sola. Questo però la signorina Bartlett non poteva permetterlo. Naturalmente avrebbe accompagnato Lucy dovunque volesse andare. Oh no, davvero! Lucy sarebbe rimasta con sua cugina. Oh no, mai e poi mai, oh sì! A questo punto intervenne la signora competente. Se è la paura di scandalizzare i puritani che l'affligge, le garantisco che può infischiarsene. La signorina Honeychurch, essendo inglese, sarà perfettamente al sicuro. Gli italiani sanno distinguere. Una mia cara amica, la contessa Baroncelli, è madre di due figlie, e quando non ha a disposizione una cameriera che le accompagni a scuola, lascia che ci vadano sole in berretto alla marinara. Tutti le prendono per inglesi, capisce? Specialmente se portano i capelli legati stretti sulla nuca. La signorina Bartlett era poco persuasa dell'incolumità delle figlie della contessa Baroncelli. Decretò che sarebbe uscita con Lucy, giacché il suo mal di testa non era poi insopportabile. Allora la signora competente disse che lei contava di dedicare l'intera mattinata a Santa Croce e che se Lucy se la sentiva di accompagnarla ne sarebbe stata felicissima. Passeremo da un sordido vicoletto che è un amore, signorina Honeychurch, e se lei mi porterà fortuna avremo un'avventura. Lucy disse che era molto gentile da parte sua e aprì immediatamente il Baedeker per vedere dove si trovava Santa Croce. Oibò, oibò, signorina Lucy, spero che riusciremo presto a emanciparla dalla schiavitù del Baedeker, che si limita a sfiorare la superficie delle cose, e quanto all'Italia genuina, non ne dà la più pallida idea. L'Italia genuina si può scoprirla soltanto grazie a osservazione paziente. Queste parole suonavano interessantissime, e Lucy, fatta colazione in fretta e furia, partì baldanzosamente al fianco della nuova amica. L'Italia arrivava, alla buon'ora. La padrona della pensione Bertolini, il suo cockney e le sue malefatte si erano dileguati come un brutto sogno. La signorina Levish, poiché così si chiamava la competente donna, svoltò a destra nel lungarno assolato. «Che delizioso tepore! Ma quel vento nelle viuzze secondarie tagliava peggio di un coltello, non è vero? Ecco il Ponte delle Grazie, di eccezionale importanza, ne parla anche Dante. Un San Miniato, bello oltre che interessante. Il crocifisso che bacia un assassino», la signorina Honeychurch ricordava certamente l'episodio. «Gli uomini sul fiume pescavano, inesatto, d'altronde quasi tutte le informazioni sono inesatte». Poi la signorina Levish irruppe sotto l'arcata dei manzi bianchi e si fermò e gridò: «Un odore! Un autentico odore fiorentino! Ogni città, permetta che glielo insegni, ha un suo odore inconfondibile!» La signorina Levish avanzò lungo le strade della città di Firenze, piccoletta, agitata e scherzosa come un gattino, pur senza la grazia di questa bestiola. Lucy era al settimo cielo dalla gioia di trovarsi insieme a una persona tanto allegra ed efficiente, e la cappa militare turchina, simile a quella degli ufficiali italiani che essa indossava, ebbe solamente l'effetto di acuire la sensazione di una festa speciale. «Buongiorno! Si fidi della parola di una vecchia, signorina Lucy. Lei non si pentirà mai di una piccola gentilezza usata ai suoi inferiori. Questa sì che è vera democrazia, dico io. Però l'avverto che sono una radicale convinta, là. E adesso si scandalizzi pure. Ma che?» esclamò Lucy. «Siamo radicali a oltranza anche noi. Mio padre votò sempre per il signor Gladstone finché non fu così orribile nella questione irlandese. Ah, capisco, capisco. E ora siete passati al nemico? Con sua licenza. Se fosse vivo mio padre, sono sicura che tornerebbe a votare radicale, oggi che l'Irlanda si è messa tranquilla. Pensi, durante le ultime elezioni, qualcuno ruppe il vetro sopra l'uscio di casa nostra e Freddy giura che furono i Tories, mentre la mamma dice sciocchezze, era un vagabondo. Oh, che vergogna, abitate in un distretto industriale, immagino. No, fra le colline del Surrey, a circa 5 miglia da Dorking. La nostra casa guarda sul Weald. La signorina Levish parve interessata e allentò il trotto. Ah, che zona incantevole! Io la conosco a fondo. È piena di gente di prim'ordine. Conosce Sir Harry Otway, un radicale tra i più sfegatati? Lo conosco benissimo. E la vecchia signora Butterworth, quella cara filantropa? Altro che, è affittuaria di uno dei nostri poderi. Com'è divertente! La signorina Levish alzò gli occhi verso lo stretto nastro di cielo, mormorando. Ah! «Avete dei possedimenti nel Surrey?» «Poca roba», disse Lucy, che temeva di passare per snob. «Una dozzina di ettari, non più, solamente il giardino, che è tutto in pendio, e alcuni poderi». La nuova amica non si mostrò disgustata e disse che erano le identiche dimensioni della tenuta di sua zia nel Suffolk. L'Italia retrocedette. Cercarono di ricordare il cognome di una certa Lady Louisa che l'anno prima aveva preso in affitto una casa vicino a Summer Street, ma non l'aveva trovata di suo gusto. E questo era strano da parte sua. E nell'attimo stesso in cui il cognome le tornava in mente, la signorina Levish si interruppe ed esclamò: «Che Dio ci scampi! Che Dio ci scampi e liberi! Abbiamo smarrito la strada!» Sembrava certo che avessero impiegato un bel po' di tempo per arrivare a Santa Croce, il cui campanile era nettamente visibile dalla finestra del pianerottolo della pensione, ma la signorina Levish si era vantata tante volte di conoscere la sua Firenze a menadito, che Lucy l'aveva seguita senza ombra da apprensione. «Ci siamo perdute! Ci siamo perdute! Mia cara signorina Lucy, durante le nostre diatribe politiche abbiamo imboccato un'altra via. Come ci sbeffeggerebbero quei mostri dei conservatori? Che dobbiamo fare? Due femmine sole solette in una città sconosciuta? Se questa non è un'avventura, dico io». Lucy, che desiderava visitare Santa Croce, suggerì l'espediente di chiedere informazioni a un passante. «Oh, ma questa è la voce d'un pusillamine, e poi no, cara mia, le proibisco di consultare il suo Baedeker. Anzi, lo dia a me, non le permetto di tenerlo, ci lasceremo trasportare dalla corrente. Ecco tutto». Presero dunque a vagare per una serie di quelle strade grigio-brune, né comode né pittoresche, di cui abbondano i quartieri a levante della città. Lucy perse ben presto ogni interesse per il malcontento di Lady Louisa e diventò malcontenta dal canto suo. Durante un fascinoso momento comparve l'Italia. Erano entrate in piazza della Santissima Annunziata e Lucy vide nella terracotta vivente quei putti divini che nessuna riproduzione potrà mai invilire. Eccoli, lassù, con le lucide membra che scoppiano negli indumenti della carità e le braccia bianche robuste distese contro cerchietti di paradiso. Lucy si disse che non aveva mai visto niente di più bello. Ma la signorina Levish, con uno strillo di sgomento, la trascinò via, dichiarando che ormai erano fuori strada per lo meno di un miglio. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.